Letture di Radio 24. L'anno prossimo i test di ingresso per le università verranno anticipati agli ultimi mesi dell'anno scolastico, rischiando così di rendere obsoleti gli esami di maturità. E così i presidi hanno deciso di riunirsi per lanciare il loro progetto di riforma, nel quale c'è anche la proposta di accorciare di un anno le superiori. Una perdita di tempo, un residuo obsoleto della riforma Gentile, una tortura che solo i poveri studenti italiani sono costretti a sopportare. Diamoci un taglio. Il bello è che a parlare così dell'esame di maturità non sono i ragazzi, ma i presidi, che a marzo si sono riuniti, erano una novantina, per un convegno organizzato dalla LUIS, Dal talento al lavoro, e ora sono pronti a passare all'attacco. Nelle prossime settimane si incontreranno e metteranno a fuoco una proposta. Il punto è questo. L'ex ministro Francesco Profumo ha deciso di anticipare i test d'ingresso nazionali. Medicina, veterinaria, odontoiatria e architettura, anziché a settembre quest'anno, si svolgeranno a luglio. I maturandi non faranno in tempo a rilassarsi dopo gli orali, termine 18 luglio, perché pochi giorni dopo torneranno in aula. Nel 2014 andrà peggio. Si partirà l'8 aprile con il test di medicina, gli altri a seguire. Si rischierà l'ingorgo di libri e di cervelli. A che cosa dare la priorità? Profumo ha spiegato il perché di questa scelta. Prima di tutto, serve un adeguamento agli altri paesi europei. Secondo, i ragazzi, soprattutto i fuorisede, hanno più tempo per organizzarsi, e lo stesso le facoltà. Ma possono comunque verificarsi dei gran pasticci. Se uno studente passa il test di chimica, ha senso che possa essere bocciato nella stessa materia alla maturità? Perché studiare tutti le stesse cose per l'esame di Stato? Si chiede Roberto Costantini, responsabile dell'orientamento alla LUIS. I numeri dell'esame di Stato lasciano in effetti più di qualche dubbio sul suo valore. Quasi totalità di ammessi, quasi totalità di promossi. Anche il mondo accademico non se la passa bene. Negli ultimi 10 anni gli Atenei hanno perso 58.000 iscritti, cioè il 17%. I laureati tra i 30 e i 40 anni in Italia sono il 19%, in Europa la media è del 30%. Da noi poi il 33% è fuori corso. È urgente intervenire se si vuole restare al passo con gli altri paesi, soprattutto oggi. Per questo l'orientamento mirato è condizione necessaria. Open day e brochure non servono. I ragazzi trovano le informazioni su internet, sostiene Costantini. Manca invece l'esperienza diretta. Le estati tra la terza e la quarta e tra la quarta e la quinta andrebbero passate sul campo. Nelle summer school degli Atenei oppure nello studio di un notaio o di un medico. Tra le proposte che i presidi metteranno a fuoco c'è quella di accorciare di un anno le superiori. Ci avevamo pensato ai tempi della riforma Moratti, ricorda il pedagogista Giuseppe Bertagna. Prevedevamo verifiche biennali invalsi per tutta la durata degli studi e in uscita una certificazione dei docenti interni. Purtroppo non se ne fece niente. Altro tema, i contenuti dell'ultimo anno. Costantini cita il modello del baccalaureato internazionale, IB. All'ultimo anno si studiano solo 6 materie, scelte dai ragazzi, sulla base del loro percorso futuro. Potrebbe essere una strada. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Cristina Lacava «Questa maturità è inutile» e i presidi la riformano così, da Io Donna del 1 giugno. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Nel 1962, a soli 18 anni, Françoise Hardy esordisce nel mondo della canzone scrivendo e interpretando il brano Tous les garçons et les filles de mon âge, che vende più di 2 milioni di copie in tutto il mondo e diventa il simbolo di una generazione. Dopo 50 anni di successi, la Hardy pubblica il romanzo autobiografico L'amour fou, titolo anche del suo ultimo album. Raccontando del suo incontro con un personaggio chiamato Monsieur X, l'autrice ripercorre le varie tappe di un amore impossibile e autodistruttivo. Lui era il fascino e la grazia allo stato puro. Gli stessi supponeva che confusamente la assillavano da sempre e che tutto ad un tratto diventavano di una precisione più che accecante, mortale. Una peripezia secondaria si trasformava sotto i suoi occhi in una sorta di miraggio che avrebbe fatto vacillare la sua ragione e la sua vita se lei si fosse rivelata tanto debole e ingenua da crederci. X spariva con la stessa facilità, con la stessa discrezione con cui ricompariva, e la prima volta in cui le capitò di soffrirne, si rese conto che era appena suonato un campanello d'allarme per avvisarla che non era il caso di spingersi oltre e che nello stesso tempo era già troppo tardi. X era uno di quegli esseri davanti ai quali tutte le difese crollano prima che se ne abbia coscienza, tanto più facilmente, in quanto queste persone non hanno nessuna consapevolezza del loro potere. Il loro incontro era da attribuirsi a un insieme di circostanze aleatorie, a ben poca cosa, in fondo. Benché il filo delle sue riflessioni l'avesse portata ad arrendersi all'evidenza che l'amore nasce alla confluenza di una disponibilità latente e di un incontro più o meno fortuito, fermandosi sulla prima persona che capita. Per poco che le debolezze di quest'ultima appaiano sufficientemente simmetriche rispetto alle nostre, gli argomenti contraddittori dell'ineluttabilità del destino e dell'intercambiabilità dell'essere amato la gettarono in un baratro di perplessità. Il corso della sua esistenza avrebbe subito una deviazione così radicale se lei in quello stesso momento si fosse trovata in un altro luogo, in compagnia di altre persone. E come non chiedersi, di fronte alla seduzione ormai inefficace del tale o del tal'altro, se sarebbe stato sufficiente che lei incontrasse quell'uomo nello stesso contesto in cui un caso apparente l'aveva messa in presenza di X, per vederlo entrare nella sua vita al posto di colui che vi era entrato. I sintomi dell'attrazione si manifestavano in lei per effetto di un fascino ambiguo, caratterizzato da atteggiamenti di distanza, di silenzio e di fuga, che in un primo tempo contribuivano a creare il mistero e ad alimentarlo, ma in seguito rivelavano immancabilmente una profonda ambivalenza nei confronti dell'amore e delle sue derive. D'altra parte, non appena le capitava di provare una qualsiasi forma di turbamento alla vista di uno sconosciuto, poteva essere quasi certa che si trattava di un uomo reso fragile da quell'ambivalenza e che qualunque relazione con lui sarebbe stata equivoca, caotica, devastante. In un primo momento aspettò con impazienza un segno che le rivelasse ciò che X provava per lei, non fosse altro che un minimo di simpatia, ma lui era straordinariamente inespressivo e impersonale. Disse a se stessa che quell'atteggiamento di inaccessibilità nei confronti di tutti non poteva che suscitare proprio la curiosità che sembrava voler evitare. Qualcosa di X faceva pensare a delle tendenze autistiche e l'idea che lui fosse più capace di farsi amare che di amare la sfiorò. Al prezzo di uno sforzo molto vicino all'audacia, tentò qualche domanda banale sui suoi progetti, sulle sue ambizioni, nella speranza di rompere il ghiaccio che lui interponeva fra loro due, fra lui e gli altri. Ma le sue risposte, un po' troppo succinte e cortesi, mantenevano intatta la distanza e non invitavano affatto a spingersi oltre. Da allora si era compiaciuta a vedere in lui un animale selvaggio e avrebbe venduto la sua anima al diavolo per addomesticarlo. Un giorno, avendolo sorpreso seduto in disparte con la testa fra le mani e sentendosi sciogliere a quella vista, prese coraggio e gli si avvicinò, ma non seppe far altro che far fugliare un banale «qualcosa non va?». Lui si riprese immediatamente, giustificandosi con un vago accenno alla stanchezza. La violenza dell'amore che lui le suscitava, esacerbato dalla certezza della sua impossibilità, le fece venir voglia di piangere e si eclissò. Un'altra volta, mentre era in macchina con un amico, lo vide per strada. L'espressione senza gioia, alquanto strana e indefinibile, che le sembrò di leggere sul suo volto, le fece intravedere l'immensità di una solitudine che sentì, forse perché lo amava, più straziante, più patetica in lui che in qualsiasi altra persona di sua conoscenza. Ancora una volta, la sua impotenza la schiacciò. Cosa non avrebbe fatto per rendergli la vita più bella, più dolce? Eppure c'era una parte di lei che continuava a metterla in guardia, suggerendole che poteva sbagliarsi, che ciò che immaginava sulla base dell'apparenza aveva probabilmente più a che fare con la propria realtà che con quella di lui. All'inizio, di fronte alle difficoltà in cui li mettevano le loro rispettive inibizioni a comunicare, tentò un gioco che richiedeva un'abilità e una padronanza di cui era sprovvista. Intercettare lo sguardo di lui divenne il suo unico scopo, l'unica nota di sapore delle sue giornate. Quando le riusciva, però, non sapeva se era dovuta al caso o al fatto che X capiva il suo gioco e ci entrava in punta di piedi, per curiosità o per una ragione migliore. Eppure, in certi momenti, le parve di sentire una reciprocità che la portò lontano, anche se poi il timore di scambiare i propri desideri con la realtà la costrinse ben presto a ritornare con i piedi sulla terra nera e instabile dei dubbi. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani dal libro di Françoise Hardy, L'amore folle, edizioni Clichy, 176 pagine, 15 euro. Sous aucun prétexte.